Adesso ti vado a rubare un proiettore, così possiamo vedere la bella e la bestia sulla parete. Che noia la sera che cade, mi sembra uno squalo fra due margherite. Io e te in BMX, le crepe due Lacoste, il cielo al braccio rotto e ingessati disegnini. Raccontami delle bottiglie ben nascoste sui letti a castello. Oh, e se questa è la prima volta che ti faccio l'amore, riposa nei tombini e la moquette è macchiata di Sri Lanka, con le tute dell'Adidas e la Kai MPC, i motorini ricoperti di scotch, le Timberland e i miei beat sono fatti di marmellata, le Timberland e i miei beat sono fatti di marmellata.